visi né nomi, vogliamo un consiglio pratico per salvarci da Allora, queste per i visi e situazioni per di i nomi. imbarazzo, sì. Allora, quindi adesso vi spiego quella che viene detta la mnemotecnica per i nomi e per i Sì. volti. Quindi, primo punto, prestare attenzione, L'abbiamo, chiaramente sì. ce l'abbiamo nel momento in cui viene detto il nome. Poi è necessario soffermarsi sul volto in modo tale da cogliere una caratteristica che sia distintiva del volto, Gli quindi occhi, il qualcosa, naso pronunciato, il rossetto esatto. magari che non è dato No, bene, no, perché noi. generalmente dovrebbe essere una, diciamo, una caratteristica stabile, Ah! quindi perché se fosse il rossetto, una persona ce l'ha in quel dato momento, E ma la poi, volta dopo certo. si perde, quindi è qualcosa di stabile. L'orecchia sventola. Esatto. Poi soffermarsi sul cognome della persona, quindi cercare fondamentale di dare un significato al cognome della persona. Ci sono cognomi che, come Cavallini, che hanno un significato da subito, quindi è Sì. semplice associare adesso un significato. Ci sono poi cognomi, come per esempio il mio Bottiroli, che non è che rimanda subito a un concetto, quindi bisogna un po' lavorarci sopra, magari scomporlo, giocare con le parole in modo tale da attribuirgli un significato. Quindi Bottiroli botte. Esatto. E poi a quel punto legare le due informazioni. Per esempio, il mio Bottiroli, io sono magrolina, uno potrebbe pensare che c'è, associando le due informazioni, che c'è un contrasto tra Contrasto. il mio cognome e il mio aspetto fisico. Quindi questo è il gioco, trovare la caratteristica e legarla al significato dato E al cognome. carbone con me? Carbone potrebbe essere che hai capelli scuri o gli occhi particolarmente scuri. Trovare quindi carbone Ero, nero. ok.